Ci perdemmo dentro il rosso di un tramonto, fino a gridare i nostri nomi contro il vento. Tu fai sul serio, no? Tra un valsere pazzo cominciato un po' per caso, tra le tue smorfie e le mie dita dentro il naso, noi due inciampammo contro un bacio all'improvviso. È troppo bello per essere vero, per essere vero, per essere vero. Sorprese addormentati sulle scale, la mano nella mano.